La politica e la verità, di accordi e trattati, di razza e metissi, di libertà, di democrazia e di rispetto, si dice che sia costruito dal basso verso l'alto, ma molte volte il contrario, di la fame estrema, della malattia, di ignoranza, che non di educazione, della chiusura di alcuni, del cattivo dibattito che corrode la salute, dei mercati aperti, di concorrenza leale, della globalizzazione, di conoscenza online, di comunicazione istantanea, per vedere il passato, per vedere il futuro, per vedere nel presente. Per non dimenticare i dimenticati, per non dimenticare i bambini, le donne, gli uomini, di grande reddito, di reddito medio, di reddito che non è di elemosina, per promuovere la formazione, per promuovere il progresso, per promuovere i progetti, di dimenticare la gara costosa e riservata, per sottomettere la corruzione, che il braccio armato colpisce con sicurezza dove deve colpire, per modernizzare la comunità, scansionare attentamente i contenuti, ciò che il bambino vede e vive nei suoi primi 12 anni lo segna per tutta la vita, di prevenire, per correggere in tempo, per forgiare un futuro di credibilità alla nostra bandiera, di bilanciare la società in ogni modo. Il Cavaliere.